ho sentito la tua voce e ti faccio gli auguri. Ieri purtroppo per vari motivi non è stato possibile. Ciao Gianfra, ben sentito, auguroni. Ricambiati Natali, tutto bene? Tutto bene, per il momento. Vabbè, quando va bene Natali, dai. Bisogna avere un briciolo di ottimismo. Non che si possa fare, diciamo, molto allegri in questa situazione, però, insomma, dai, c'è chi sta molto, ma molto peggio. Quindi ci dobbiamo consolare almeno di questo Natali. Ok, oggi è tutto chiuso, quasi tutto chiuso, anche i negozi sono aperti in pochi. E quindi poi anche il tempo è brutto, quindi tutti a casa. Infatti, mi stavo aggiustando lo spinotto, qua gli ho messo uno spessore che era lento, lo spinotto del microfono. Buongiorno e buon Natale a tutti. Buon Natale, pace, bene. Se non sbaglio sei Antonio, perché la voce non è molto, è un po' forte, ecco, tutto lì. Come c'è la modulazione troppo forte, aspetta. Com'è adesso? Per me è sempre forte, non so per Natalino se vada bene. Natali, che ne dici? Che ne dico? È sempre fissato con la potenza quest'Antonio. Aspetta. Guarda a vedere com'è adesso. Già va bene, Antu, dai, stavo scherzando, già va bene. Tutti ti vogliamo fare spaventare, Antu. Io sto parlando col microfono normale, Gianfra, perché lo spinotto del microfono da tavolo lo stavo aggiustando e stavo mettendo uno di quegli spessori, perché c'era il cavo lento, sai che me lo strappi. Sì, Natali, comunque per me è ottima, è una radio da non toccare quella, è veramente ottima, è chiara, è la tua voce, insomma, è ottima, tutto lì, molto meglio di certi amplificati che si sentono, che sono distorti, che sono tutti qua contro sui, quindi non toccare niente, tienitela stretta. Avanti Antu, allora, che si fa? Si rimangia? Si fa dieta? Se magna, sto preparando il sugo, sto preparando. E dopo è pronto, piano e via. E allora si va bene. No, oggi a me tocca spezzatino l'agnello, quindi così, una cosa, non credo che sia neanche tanto leggera, ma diciamo giusto per cambiare, dai. Kappa, dai. Esci che vado a tirare il coso, va. Un attimo il telefono. Se no si attacca tutto. Ehi, avanti Natali. Tiro il telefono, Gianfra. Mamma mia, questi telefoni. Io invece devo rimpiazzare una presa che era nascosta e non era conforme, diciamo, oramai lo sto cambiando tutto, non so, già una settimana attaccando, perché sto mettendo quelle prese, come si chiamano, banana, no? Quelle rosse e nere. Io mi devo buscare un alimentatore. Questo qui, perché voglio mettere l'alimentatore solo per questo, da. Gli altri me li alimento con quello che ho. C'ho un 30 ampere switching della Proxel qua e me li alimento con questo qui. Invece questo che sto parlando lo voglio alimentare con un alimentatore suo e boh. Come mai questa cosa? Perché vuoi separare le cose o per motivi tecnici? Per motivi anche tecnici, che adesso sto uscendo basso, ma se vado in banda laterale magari vuole più ampere, capito? dacci un litro, Luigi. No, ne voglio di quelli cinesi. E 30. No, sono apparato grande, non vanno bene, sportano dietro delle spurie micidiali, no, roba seria, Natali. E infatti non so cosa prendere, almeno un 30 ampere vorrei prendere. Ma io già spinge forte, l'ho messo da una parte, l'ho messo e via. L'ho messo fuori poi dalla radio e non mi crea nessun disturbo. Un attimo che vado ad aprire. Sì, Natali. Ma tu sei sempre qua. Se tu vuoi farsi un ascolto in HF e da altre parti, a voglia che li sente disturbi, capito? Io ce l'ho avuto, figurati che non era neanche per la radio. Un cinese l'ho regalato, infatti era da 40 ampere, da 45 ampere. Proprio perché sulla videosorveglianza mi faceva delle onde che su quelle telecamere non vanno bene, ecco. Spendi molto per avere una buona qualità e poi un alimentatore te lo a causa proprio di questo fenomeno che c'hanno e se le guastano. Tanto è vero che gli alimentatori un pochino più costosi e c'hanno anche una manopola proprio per eliminare il disturbo che creano questi alimentatori, capito? Perché lo fanno solitare un pochino di frequenza. E c'hanno anche dei filtri supplementari che quelli cinesi ovviamente non c'hanno, capito? Di norma vanno bene per delle luci a LED, per quelle cose lì, però ripeto, c'hanno delle grosse limitazioni, d'altronde tu paghi poco, c'è poco. Infatti, se era stato per il baracchino magari, ma neanche, non ne uso neanche per il baracchino lo uso, c'ho questo 30 ampere della Roxel e il 30 ampere. Ma guarda, io ce l'ho e funziona benissimo, li ho messi lontano, non li ho messi qua in mezzo alle scatole e vanno bene. Tanto non è questione di vicino o lontano, è che anche se lo metti lontano lui è sempre vicino perché ti sta dando corrente, capito? E se la corrente non è lineare è chiaro che si generano disturbi che arrivano alla radio inevitabilmente. Quindi è così, purtroppo è così. Vabbè, lo usi qua e quindi a un certo punto se ti va bene, contento tu, contenti tutti, però per chi deve fare qualcosa di un pochettino più serio, che vuole un'accezione pulita, è totalmente esente da disturbi, deve andare su alimentatori seri, ecco, non dico professionali, però seri, che evitino questi disturbi. E costano di più, su questo non ci piove, però la qualità si paga, c'è poco da fare. Allora, Natali. E quindi stai dicendo questo microfono normale è di lusso, Gianfra. E adesso gli ho messo, peccato gli manchi un tasto dell'up down, gli manca il tasto di fuori, perché già funzionano tutti e due, solo che gli manca il tasto proprio. No, a me mi piace molto questa voce, innanzitutto non ci sono sottofondi e quindi si sente la tua voce e basta, e poi è bella, non sembra neanche un microfono tanto normale, sembra un amplificato a volume medio, dai, però della tua voce, non dei tuoi rumori, ecco, non so se ho reso l'idea. Avanti, Anto. Guarda, ne ho avuto uno dalla Proxel, mi è durato dalla Bacca a Santo Stefano. Guarda, la Proxel ce l'ho avuto anch'io e sono ottimi. Il fatto che se non era nuovo ed è stato pigio e toccato, è ovvio che non... E poi poi dipende da quanti ampere le ha caricato. Di norma non succede niente, perché quando hanno tutte le protezioni, quindi non so cosa abbiamo dato, cosa abbiamo rifilato. Io, figurati, appena c'è il minimo cortocircuito, perché inavvertitamente magari sta lavorando, colleghi, il posizionamento istantaneamente lui blocca la corrente e si accende una luce rossa. Poi c'ha tante altre protezioni, sia quelle amperometriche, sia quelle anche di scarica, magari di sovratensione e così via. Quindi se ti sei bruciato era difettoso o era manomesso, ecco. No, l'ho preso nuovo dal negozio, ma è durato un anno e poi si è bloccato, fatto una mezza... Dai. Ma io ce l'ho da tanto tempo, questo qui ed è ultimo, non gli è mai successo niente. Addirittura sto alimentando altra roba insieme con questo qui, sempre a posto l'alimentatore. Adesso me ne compro un altro uguale da 30 e lo metto solo per questo che sto parlando adesso. Gli altri li alimento con questo vecchio che ho, che vecchio non è poi, però per dire ce l'ho tanto tempo questo. Tra l'altro non è che costino così cari, per la maggioranza di questi alimentatori, cioè sono da 150 euro ultimi, che ti danno anche 45-50 ampere. Sì, infatti. Caspita, c'è una propagazione. Tanto li senti questi? Antonio sta girando il sugo. È minimo, fra un po' devo andare anche io a cucinare qualcosa, che c'ho gente a pranzo. Quindi devi cucinare tanta roba, se hai ospiti. Sì, infatti, ma ancora già è presto. Insomma, non tanto, sono già le 10:40, che sono parenti delle 11. Allora, devo terminare questo coso qua, come si chiama, questo collegamento che ho, siccome ho staccato i fili, ho due radio in off, quindi devo metterci la mozzettiera nuova e stringere, così anche questa è fatta. Quindi rimango in ascolto, tanto state tutti cucinando, quindi è giusto che girasse il sugo, che se non si attacca ovviamente, anche se è poco lento, e tu Natalino, lo so, stai attento al forno a questo punto. Vabbè dai, buona Querix allora, e buon proseguo di morsettiera Gianfra. Io ho già fatto tutto quello che dovevo fare adesso, per il momento. Vabbè, anche io rimango in ascolto, Sant'Antonio se n'è andato. No, non so se se n'è andato, forse il sugo gli si stava attaccando e quindi è dovuto scappare di corsa. Vabbè, ciao Natalia, dopo, comunque sono qua in ascolto. Ehi, cappa, dai, anch'io da. Ci sentiamo Gianfra. A dopo. Mi stavate chiamando? Sì, Anto, per salutarti, per dirti che siamo in ascolto, perché Natalino anche lui sta cucinando. Io devo collegare alcuni fili per degli apparecchi, che sto mettendo delle mozzettiere nuove. Quindi ti lasciamo alla cucina anche a te, Anto. Dai, ci sentiamo magari più tardi. Cappa, dai. Il sugo già fatto e dopo ci facciamo i ravioli. Yuhu! Buoni, io li ho mangiati ieri. Ciao a tu, a più tardi. Ciao, ci sentiamo. Hola. Hola? Avanti. Scusa cacca, mi è rimasto bloccato il tasto del microfono. Ciao a tu, ciao Robè, buonasera. Non mi sono girato e ci ha voltato il locco in schiacciato anziché TPTT. Non mi sono capitato, perché è mutuo, è diventato l'apparecchio. Cappa, buongiorno. Allora, come va? Io mi stacco, forse. la roba che hai mangiato, hai dormito male, so che va a pizzi. E a gatto dici? No, non bevo, però mangio un bel io, quando mangio, poi diciamo non è salutare mangiare sta roba che mangio io. E pure io già, qualche cosa, non più tanto, ma già mangio, e così è giù puro. Il problema è che mangio pure troppo veloce io, e non fa tanto bene, bisogna mangiare più lentamente, con le pause, almeno mi hanno detto sempre così, però poi ho dormito male, tutta la notte mi sono svegliato, puoi andare in bagno, poi rialzi, ti dromi, ti iri, un sonno brutto ho fatto. Pure io sono così, mangio in fretta e digerisco subito. No, io già digerisco subito, non c'è problema. Ma succede che poi ti curi dopo mangiato subito, ma non bisogna curarsi mai, perché la digestione non la fai bene. Poi ti viene sonnolenta, stamattina ero tutto sudato, mamma mia, ho dormito male. Può capitare, là. Io mi quando già una bella bottiglia di birra già me la posso fuori. E rimango, e tu dove sei andato? A casa ero. Ah no, dico per sommare amici, parenti, E dove vuoi andare? A Kai Dai. Sì, già lo so. Movimento c'era, Bluetooth, tardi, scoopi c'erano dalle parti vostre. No, appena, robe. Mia guerra. Mia casino, da voi. Allora, guarda, io non mi sono accorto di niente, vabbè, a casa di mio cognato già è abbastanza, c'è doppi vetri, tutto sigillato, non ho sentito niente, però ho visto il video a tappetino su Maria Guerra Mondiale, tutto fuoco, cioè vedevi il fuoco, ho fatto un video sulla Nuova Sardegna su internet, sembrava una guerra, tutto fumo rosso, tipo quando ci sono le partite di calcio nelle tribune, tutto quel fumo rosso, fumogeni, petardi, viene un po' di macello. Sicuramente qualche vendetta, capito? Perché hanno bloccato alcune cose, hanno fatto un casino niente, capito? Ah, ti posso vedere i miei mini ciccioli, cosa scoppio io? Non lo so. Già di quelle cose già ne ho visto tante. Mio cognato, quando andavano fuori, li portavano, ma mamma mia, adesso però bisogna stare attenti. Quando scoppia Buruetti, morani, non ti preoccupare. Hai visto quel ragazzino che ci ha spaccato la mano, tutta quanta, di 14 anni? Cioè, mi è capitato una volta a me, ma non sto aspettando. Io ho detto, vai a giocare con i miei ciccioli, vai, non ti sono conosciuta. Bisogna stare attenti, ma poi ci sono questi che non sono neanche certificati, è roba chissà come te vai, magari l'amica è troppo corta, tu li metti e ti copia già in mano, io li temo troppo, sempre lontano, quando li fanno mi allontano, perché ho visto delle storie un po' brutte, ma brutto e brutto è me davanti a me, bisogna stare un po' attenti, infatti arrangetevi, vattene dall'altra parte, io non ci sto vicino. Ma io non ho paura, io li accendo, li metto in terra e poi me ne vado e aspetto il botto. Sì, e se magari tu dici ti avvicini, ma come mai non scoppia, forse non l'ha acceso bene, e te ne strazza la mano. No, io me ne vado via, non ti preoccupare tu. La maggior parte è così, tutti, ma perché non ha acceso, forse non è, lo riprende in mano, stracca e ne strazza la mano. Scappa. Qui che ti ha già mandato una cosa, mi robe. E questo te l'ha fatto? Non si dice mai. Ma qual è lui? Come? Portati Megliano, ma non posso dire chi. No, ci mancherebbe. Dimmi un po', nessuno c'è qua, sul solo, sì. Poco fa c'era Natalino e cosa, Gianfranco. Gianfranco, non l'ho sentito ieri con Claudio, poi è andato via sul tardi, prima di cena. Dai. Ci sono anche adesso, solo che sto lavorando. Mica più ci oggi è buono per mettere l'antenna, Gianfranco, mica, che non c'è né pioggia né niente, una bella giornata, poi andare anche in maniche corte. Infatti no, sono all'interno che sto facendo le prese nuove per le prese di stazione. Ho quasi finito, poi mi sono accorto che ne mancava una, quella che alimenta tra l'altro anche apparecchi importanti. Per questo mi è scappata. Siccome ne avrò saranno una quindicina di prese d'alimentazione. E quindi questa è scappata. Ohia, adesso sto faticando un po' per collegarla. E niente, quindi sono in ascolto, Robè. Quanti kilowatt c'è? 50 kilowatt per alimentare la stazione o di più? No, no, tutti gli apparati sono certificati anche per i pannelli solari, perché sono a bassissimo consumo, nonostante anche siano apparati a 50 watt in UHF, però sono hanno doppia alimentazione. Alimentazione primaria e alimentazione secondaria d'emergenza in caso di mancanza di luce. E adesso dal nuovo anno installo anche i pannelli solari, così colgo proprio l'alimentazione elettrica. Poi che male schiena, casa siamo qui, che va a inchinarsi e è una tortura. Vieni dallo su quella schiena, non c'è a scherzare. Vai Anto. Così Gappa, e da voi fatto ne hanno un casino dalle tre parti. Se dici a me altro no, io non ho sentito niente. Qua sono tutti tranquilli, tutti pensano a magna. Altro che a sparare. Oi oi. Qua c'è la contraerea vera. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Un casino. E che di nigeriani che ci sono dalle tue parti, Antu? Ha brutto fatto, ne hanno rumeni, con la gente lì. Già ne hanno fatto. Ne hanno fatto, che uno cazzo per un sacciato, riosso. Papà culo! Loro il Natale non lo festeggiano, loro sono musulmani, il Natale non lo festeggiano. No, ti stai sbagliando, questi qua no. L'hanno festeggiato? Non sono musulmani. Non pare che siano cattolici. Non lo so, allora forse sono di quelli, come si chiama, Nigeria, che c'erano in mezzo, i francesi ci sono stati, non me lo ricordo chi erano, se li avevano occupati, magari qualcuno è rimasto con le cose. No, io ho tanti amici questi di altre religioni, però loro non lo festeggiano in Natale. No, questi che c'ho di fronte, non so, io so che non sono musulmane. Addirittura vanno in chiesa ogni giorno. Oh, ma tu la sapevi una cosa, che c'è una chiesa cinese a Sassari, che i mari non lo sa neanche da voi. Oh, non ne sono. Qui ci sono buddisti, so. No, no, c'è una chiesa, tu lo sai dove c'è la, come cazzo si chiama? L'Audi, la concessionaria Audi, no la Germancar, dall'altra parte, di fronte alla Germancar. E poi cosa fai in Kibi? Lì c'è una chiesa, l'Audi, tu allora l'hai visto dove c'è l'Osa? Sì, lo so. Dietro di l'Osa, lì per andare poco più. Ma di maschio o di donna il perizoma? Vai. No, che perizoma, no. Cos'è Natalizio? Sono sulla punta dell'antenna, Emi, le ho parlato. No, da Antonio c'è, non c'è il perizoma, c'è la parizona, che è diversa. La paritaria c'è. Ma sai cos'è la paritaria? Cos'è, cos'è la parizona? La parizona non lo so, la paritaria già lo so che cos'è, lo sapete voi? Digli a Natale cos'è la parizona. E la parizona l'avevamo una noce. È la pente. Chi sono la bizona, No, quella è la zona B. Non ho capito niente, cosa avete detto? Avete parlato in quattro. Scusate un attimino il telefono. Ciao. Ok. Oh yeah, Antonio, ok, Antonio ti imparo di meglio. Ciao. E allora, sono pieno di stazionarie. No, qua è poco più su, ma non le va di nulla. No, non c'è problema, capito? Ma qua ce le ha due io. Sto anche rischiando. E allora, fa una cosa, non c'è un accordatore? Allora, questa potenza, metti di molto, molto di meno, usane. Sono già al minimo, e accordatore però non ne ho perché me l'ho venduto, ce l'avevo e me l'ho venduto. Cappa, no, qua è a 1,2. Vabbè, era giovato lo trattamento, era giovato. No, qua è che l'antenna è scassata e boh, entra acqua e non riesce a diffluire, perché adesso non sta piovendo eppure c'ho le stazionarie, vuol dire ancora piena. No, mia, no, meno male, ed è un arringo, meno male che io ho fatto quel trattamento là, se no per farti uscire in campo. Ehi, me lo posso immaginare. Non vedo l'ora di buttarla giù questa qui e di piazzare l'altra, da. Io mi ci portato tanto. Che l'ha già promessa, se no capo me l'abbia abbigliata io. Quella lì la aggiustiamo e adesso se la mette in campagna, capito? Facciamo in modo che non entri più acqua, perché sennò già era buona come antenna. No, l'antenna è buona, ma è la tua che fa difetto. Perché ho sentito che ce ne sono altre che non lo fa quello. No, e a me mi hanno detto un amico che ce l'aveva anche lui e si ripiena della bura Edu. E allora bisogna vedere bene dove è la bobina, cosa isolarla bene. E infatti. Maria, mi ha detto auguri Sarami, a te e a Concetta. Altrettanto, digli. Capa, perché non si ricorda se gliel'ha fatti, capito? Eia, già ce li ha fatti. E comunque auguri tutto quello che desiderasse. Un po' come di là. Tutto quello che desiderate, se da voi arrivi di là è pure meglio, no? Già un grido via. Già un grido. Ah, e te sono avvolato, rimane Natale. E stanno usando roba potente qua. Gatta, giù qui c'è una bomba. Tremadua. Gatta, mica ha fatto un rumore tremendo. Chissà chi era. E cosa ne so io? Anche l'hai sentita? L'ho sentita qua, ieri ha fatto questo boato. Prima deve essere stavano usando quelli piccolini, no? A ripetizione. E dopo ha fatto questo boato forte, sarà stata una di quelle bombe carta belle grosse. Chissà chi era quel bambino Monello. A me mi pare che sei tu isso. No, non c'entro niente io sono innocente. Aspetta un attimo. Tutti qua siete, o fuggite? Cappa. Solo tu o anche Natalino? Natalino forse è andato a fare una cosa. E cosa, Claudio, ho sentito? Cioè. L'ho sentito ieri. L'altro giorno, ieri ho acceso, c'eri anche tu mi pare, Antonio. No, forse c'era solo Carlo e Antonello Pompugno. Non ho sentito molta gente, non ho più sentita. Accottimo entra, mi ha dato, entra tanto, no? Poi siamo andati a fare delle prove, eravamo con Gianfranco e Claudio in altre bande, siamo andati. Ma chi Claudio? Claudio da Muros? No, Claudio Sparviero, c'era anche Claudio, no, sto parlando di radio amatoriale, non sto parlando di cosa. Non so con Marco dove bisogna andare, puoi immaginare, non ho mai ascoltato nessuno. E anche mi è arrivato un messaggio, scusa. Tu questa radio ti piace? Il microfono normale? Cappa che mi piace, ogni tanto strappa appena, forse perché fare troppo in alto, capito? Natali, ti ho mandato una fotografia. Ma si tratta di un dietro telefono, vero? Vabbè, se lo trovi. Rieccomi, scusa, mi stanno arrivando messaggi, devo rispondere. Hola, chicos. Cos'è, tu? Ho detto hola, chicos. Ah, hola, chicos. Allora, pensavo che oggi, in questi giorni di vacanza, tutti a casa, tutti con i baracchini, invece non ve ne sono, tutti morti. Io sto aspettando, tra un po', vabbè, ancora è presto, se venire gente a casa e voi fate te, ci accendo un pochettino, non ve ne sono. Ho chiuso il cernaio che la vendeva. Ogni passata di acqua che hanno fatto stamattina presto, verso le 4, le 5, ma Eva, l'hai sentita? Sì, l'ho sentita già, per carità. Sì, lo so, sai, non faccia danno, perché quando piove così tanto in abbondanza, molte volte si intasa qualche tombino, qualche cosa e si allaga tutto. Sembra a tua foto. C'ho una foto che ho fatto l'anno scorso era 2020, nel 2019, il giorno di oggi, il 26, ero in bicicletta a Malai, c'era una giornata estiva, bello, cacchio, mi piace, oggi è una giornata di da lupi. Ma ti piace la bicicletta? Ma Vorrei andarci in bicicletta, ma non sono allenato, mi l'avevo portata giù in coso con la macchina, ero sceso, con cosa ero sceso? Forse col fiorino, non me lo ricordo, col doblò, l'avevo portata giù, ho fatto il giro e poi me ne sono ritornato, ma allora a fare 2 chilometri bisogna già cracco, perché non c'è allenamento. Prima sì, magari quando allenavo a giocare a calcio sì, ma adesso ormai sono morto, faccio 2 scale e sono già con la lingua. Infatti come iniziano un po' qualche bella giornata voglio rimettermi a fare un po' di movimento, se no sono gomoso. Ormai sei vecchietto, Roberto, ti devi rassegnare. Già lo so che sono vecchietto, però cacchio, qualche anno non me lo vuoi dare, Natali? Io... io pure quando andavo a caccia, che ero giovane, erano pochi quelli che mi tenevano dietro, camminando però mi... siccome avevo il passo svelto, nessuno mi veniva presso. Guarda, sono andato 2 anni fa alle rocce, via le rocce, alle grotte di Nettuno. Io penso, facevo le sotte per salirne, dovevano prendere il coso, l'ambulanza, ogni sfacchinata. Io l'ho fatta meglio, la tramaliglia, sono partito col gommone, perché stavo insegnando uno che ce l'aveva, no? A scenderlo in mare, tutto dal carrello. E ci sono andato lì alle grotte di Nettuno col gommone di un amico, capito? Cazzo, un bel motore c'aveva, un 40 cavalli c'aveva e poco camminava. No, io sto parlando a scendere a piedi dalle scalinate, sono 750 gradini. A scendere ti arrangi, ma quando devi salire? E una volta l'ho fatto con una fidanzata che avevo, a scendere a piedi lì. Ma io l'ho fatto tante volte, quest'ultima volta diciamo meno peggio, ma la volta precedente ancora ero in piena estate il 16 di agosto, ma era un caso, sono andato all'ora di pranzo, mezzogiorno e mezza, mi sentivo legato a Giacomo Gianco, tutto il liquido che ho consumato ero giù, mi tremavano le gambe a scendere, poi non parliamo a salire, un caldo, mamma mia, stavo morendo, infatti ho detto non ce la faccio più. Quando ero più giovanotto, sui 23-24 anni, le ho fatte correndo la salita, abbiamo fatto una gara con gli amici, mio cugino anche arrivava primo, però ero allenato, sono arrivato primo io, ma tutta la tirata correndo, ho tracciato a tutti, adesso faccio 2 scalini e gioco già a muro. Perché c'è il cuoco, vecchietto come te, perché tu, cosa ti credi che c'è più resistenza di Roberto, e di Vella? Ma lui è cuoco, quindi ha meno resistenza di me, capito? Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon Santo Stefano. Thank you anche a voi, Cla, a te e a tutta la famiglia, da. Ciao Cla, ma poi Claudio lui è in alta montagna, per cui respira aria buona, non è aria inquinata come siamo noi, Natalia. È quello che vedi, è quello che lui c'ha l'aria buona lì, noi tutti inquinati, no? Che mai forse non avremmo avviato. Allora. Gappa gappa, io beh da lì, cazzo mi ha baciato l'Eva che ha avuto un po' giù di fa, ciu. E non che fai di Eva, ma tessimi. Ma c'è nebbia, non si vede manco il giardino, 2 ore fa ha fatto una passata d'acqua, ma acqua però. Oh Cla, ti piace questa radio, ho cambiato microfono, che? E quale stai usando? Quello normale? E allora, perché c'avevo il cavo lento, no? E gli ho messo uno spezzone, cioè gli ho messo uno spessore allo spinotto, non sai che mi strappava i cavi da quello da tavolo, e ho lasciato quello normale, là. Mi dispiace per il tassino, che... ma avanti il gaburaccio, burro, così ce li seguo, perché funzionano, mi. Sì che funzionano, deve essere che è stato perso, ma l'hanno fatto così. Ma un tastino up già si può procurare, non so se quale manca, quello up o down? Quello down manca, l'up ce l'ho. Sì, adesso guardo in qualche microfono, che parte già, te lo procuriamo un tastino, se no ne volimo uno off on, per già abbiamo tutti e due, e lo avremo turbo, anziché down e up, volimo off on, e siamo a posto, up e chiusi. Antonio Pedivella. Oi, buonasera. Buon Natale, non ci siamo sentiti, cavolo. O ci siamo sentiti così di sfuggita. Buongiorno e buon Natale. Io sono entrato ieri, vi ho fatto gli auguri, poi mi sono spostato banda amatoriale non sono più entrato. Poi è arrivata la truppa qua e quindi ho spento tutto. Però già ve li ho fatti gli auguri. Va bene. E beh, Robè, che si dice? Fracco sono, no, a parte che dormo malissimo io, ma ieri notte è stata più peggio degli altri giorni, infatti, forse non lo so, tutto quello che ti sei mangiato sarà quello, Lo so. No, ieri notte siamo andati leggeri noi, a pesce. Oggi a pranzo, non lo so, forse un po' di avanzi, ma comunque roba leggera, che ci sono due vasciui belli che mi attizzano molto di quella fatta con i pigili, si chiama zuppa cordola, no, zuppa inglese, come la metto, comunque fanno le donne a far ingrassare i denti e oggi le facciamo fuori, così ci rampiamo tutte le diglie. Insalata russa quella, Bravo Tattarin, cazzo buona vita, insalata russa, sì, ce ne due vassoietti manco toccati. E io Filippo non li mangia, se no la via da Filippo. Cazzo, ha detto zuppa inglese con i pisilli, la gente cosa di tagosa, pensavo cordula con pisilli. Ma quella pisilla da mangiare, sì, buongiorno, auguri a tutti. Mia Franco, ciao Fra, auguri. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Qua l'ingrasso siete, voi, una vergogna siete. Ciao Franco, come sentito, e augurone. Grazie altrettanto a voi e alle vostre famiglie. Ciao Franco, tanti auguri e buon Natale. Auguri Antonio anche a te e alla famiglia. Auguri anche a Claudio e famiglia. Vabbè, già ci siamo sentiti con le signore. Buongiorno Fra. Abbiamo ascoltato anche a te. E chi ci lascio sempre su WhatsApp, mia moglie con tua moglie, non c'è problema. Sento dei rumori, il QRM, sicuramente sta piovendo di nuovo, vediamo un po'. Prendiamo, sì. Stamattina è scesa l'aria, sono sceso al ghiero stamattina alle 7 per fare un periodo di lavoro e mamma mia, era tutto lagato, era. E poi l'alghero, basta facciamo due gocce d'acqua, non sono mai riuscito a sistemarla quella zona. Anche la strada, anche le strade sono piene d'acqua. Infatti no, vabbè, non stavamo correndo, acqua planning c'era. E dalle scariche che ci sono, cioè il QRM8. Lo sento anch'io un po' friggere, ma qui è un segnale di uno, non so a cosa corrisponde questo smitter, però lo sento friggere. Ma stamattina c'era sul canale, mi sembra canale 20, questo qua che mandava tipo un disturbo tipo CW, quando fai il contratto del CW continuo ti. Non so se era qualcuno che si stava divertendo o cosa era, ma era forte, mi arrivava più di 9. No, quando piove tutti questi disturbi. L'altro giorno c'era un po' di propagazione dall'estero, io la sentivo, figurati, con l'antenna della macchina. Ma arrivavano anche fortini di radio. E anche stamattina ho acceso un attimino, ho sentito qualcosa, c'erano anche in banda laterale, in FM, 5 minuti ho acceso perché solo per vedere, stavo facendo altre cose. Sì, in FM erano, avanti ieri mi sa, avanti Claudio, probabilmente sta piovendo. E adesso si è di nuovo riabbassato il QRM, adesso è quasi 5. Natalia, e tu? L'hai sappata qui a mezzanotte l'antenna? Ma cosa ha tappato l'antenna? Piena d'Eva, cazzo. Più di due, adesso sono salite ancora. E infatti credo, l'hai tappata l'antenna a mezzanotte, a togliere il tappo, mia, a fare l'Eva. Non la vi lascio in capo. Ascolta, ma si è posto la carabina, non va bene a fargli un buco passante? No, che l'ho promessa, ragazza, se non gli davo una fucilata me la buttavo direttamente. Davanti a tu. Cappa. No, la mia per fortuna non mi sta dando problemi di niente. Come si dice? Perché gli ho messo anche la vasellina, quindi scivola l'acqua. E non mi fa dare problemi, capito? No, la vasellina ci vuole sempre. Avanti, Robè. Scusate, attimo il telefono. Ehi, Claudio, sei rientrato? E io tra un po' sto scappando, mi devo scendere in campagna. Sono giusto per farvi gli auguri che ieri non ho fatto in tempo a entrare. Hai deciso allora quando piazzarla, Natalia? Claudio. Ma tutti i fuggiti si soffra. Come è andata sono stazionario, Natalia? Eia. No, io sono meno 0,1. No, non ne ho. Ma sto usando l'accordatore. Io me l'ho venduto, gatta. Due me ne ho venduto di accordatori, le mani mi dovevo tagliare, uno era Vectronic e l'altro MFG, mi raggiungo tutti e due. E io uno lo tengo in macchina e uno a casa, se no uno te l'avrei anche dato. E in macchina, a volte quando parcheggio sotto l'albero, l'antenna è in mezzo ai rami, mi salgono le stazionarie, quindi gliele abbasso manualmente. E cazzo, io sto pure rischiando con questo apparecchio, è che ne ho eliminato anche il coso, il commutatore, se no avrei usato l'altro. E fai passaggi brevi, tocca ogni tanto con la mano a vedere se sta scaldando. Vediamo un po' se è rientrato Claudio. Oh, non lo sento più. Antonio, a te il mic. Mi ha fatto attenti come stazionare, capo, ma non so se sta scaldando molto, perché è un casino. No, io per fortuna, basta passare, pure io poco a poco ce l'ho, ma no, non è che li fossi nulla. Passo appena appena di potenza e sono a posto, no, non ho problemi, capito? E io l'ho messo tra l'apparecchio e l'amplificatore, dai. Poi il resto, quello là è autoaccordante, quindi si dovrebbe accordare da solo, non lo so, in teoria, in pratica non lo so. Comunque il B507 è autoaccordante. Confermi, Natali? Tottolino. No, io c'ho lo strumento attaccato e non me ne crea problemi. Non va bene, diciamo, no. Poi ho messo la cosa e via. Sì, lo sento anch'io il correre, ma invece sta piovendo qua. Che è avanti? Capo. Ciao Mirko, ben ascoltato Mirko di Alghero. Salutone, ben sentito. C'è un altro amico ma forse non ti sente. Oh, magari. Dice che lui ti sente, Santiago 4 mi ha detto. Vabbè, io sono agganciato, poi già lo sai com'è la mia antenna. Purtroppo se sgancio non mi sente neanche lui, quindi siamo più o meno nelle stesse condizioni. Finché l'antenna non è sul tetto, non posso sentire nessuno. Un saluto, faccio gli auguri anche a lui, un abbraccio da parte mia. Ecco, avanti break. Ciao Antonio, ciao Franco, con gli altri non so chi c'è, ho appena acceso. Niente, buongiorno e tanti auguri a tutti, Avanti Franco da Sorso, avanti Franco Sassari. Mi sembra un'altra modulazione, ho cambiato microfono, non so, sembrava diversa, dai. Non ti stavo neanche riconoscendo, un abbraccio anche a te, tanti auguroni. Speriamo bene, dai Fra. Speriamo sì. Di Antonio, buongiorno. Capo, salutoni Franco di Sorso, buongiorno, come va? Bene, bene, bene, più bene di così non si può. Certo, anche io. Mi auguri buon Natale, che non ci siamo sentiti. Ok, dai, comunque auguroni a tutti. Ciao Roberto, buongiorno e auguroni. Ciao Gianfra, ciao Fra, ben sentito, auguroni anche a te e a tutti in famiglia. Ok, riprendete chi c'era, Antonio, Franco Sorso, Franco di Sassari, Natalino e Claudio. Claudio girando il maiale, guarda sta facendo. Girandomi le balle. Ecco l'ombrello mi. Girandomi le balle. Buongiorno, stavo asciugando il cane che è uscito fuori a fare i bisogni e è entrato tutto in fucio, quindi lo stavo asciugando col fuoco. E tre giorni Claudio girando un maialetto. Non solo girando il maialetto, te l'ho detto, anche girandomi le balle. Mica gli viene mal di testa, lì. Hai sentito cosa ha detto prima? Mangio leggero, ci siamo mangiati un po' di pesce, ecco, adesso c'è rimasta un po' di insalata russa, che è insalata russa, no? E chi c'è il condimento? Voi già ve l'ho detto. Condimento, un antipasto è questo. Allora. Sì, sta aumentando il QRM. Dai, vi saluto che devo scendere in campagna. Un abbraccio a tutti e speriamo tante cose belle, dai. Avanti Claudio. Ciao Fra, salutami Anna, cordialità, baci e abbracci a tutti. Vai Robè, fai girare tu un attimo di bianco per me. Ciao Franco, ben sentito e buon tutto, dai. Vai l'altro Franco di Sorso, so che poi Natalino e poi Antonio. Dai, ciao Franco, buon proseguo, buon tutto, ci ascoltiamo. Avanti Natalino. Ciao Fra, buon proseguo, alle prossime, ben sentito Franco di Sorso. Io me ne passo in QRT e devo cucinare, che c'è gente a pranzo, là. Ci sentiamo alle prossime. Salutoni a tutti. Capo, ciao, ci sentiamo alle prossime. grazie mille, ciao ciao. Avanti Robè. Ma Franco, di sosso hai fatto qualcosa alla radio? Più forte ti sento. No, negativo, niente. Sempre la stessa radio, lo stesso microfono, nulla, stessa potenza. Non ho cambiato niente. No, forse il livello microfonico è sollevato. A quanto ce l'hai tu? Microfono mica l'ho mai toccato. Non tocco né il Mickey Gin né il microfono. Il microfono non è una roba da aumentare. Oh, parlo alla radio, il Mickey Gin della radio, a quanto ce l'hai? Quello ce l'ho sotto la C. No, vabbè, sembrava più forte, forse Mario ha alzato un più il volume rispetto al normale. Ti sento perfetto, benissimo, bella. Come sempre, per oggi mi sembrava più forte di radio. E magari sto parlando diversamente, dai, appena più altino. Però già è normale, dai. Vediamo se nel frattempo qualcuno ha desiderio di partecipare alla discussione. Avanti su 10, come entrare, se no riprendi tu Antonio. Ciao Mirko, ben sentito e augurone. Compagnia mia di Antonio Bombolo, Claudio. Natalino, che poi vabbè, forse Natalino è andato via, e Franco di Sorso. Vediamo prima Franco, che è più lontano, se l'ha ascoltato, e poi Antonio. Sì, l'ho ascoltato. Ciao Mirko, ben ascoltato e tanti auguroni. Franco di Sorso, vai a tu. Capo, l'ho salutato da prima Mirko di Alghero. Capo, oggi mi arriva anche meglio, mi arriva. Mirko, ma non è il 757 questo? E l'altro giorno con il 757 uscivi una fucilata, adesso sei 9 abbondanti, quasi 9,5. La radio 5, però con l'altro è il più forte di radio. Ciao Mirko, buongiorno, Claudio Spagliero, buon Santo Stefano, K. Grazie, grazie altrettanto a Boigi, avanti Robè. Io se non vi rispondo non sto girando niente, ma mi sto girando le balle, come vi ho detto, perché il cane all'entra esci e entra ed è tutto bagnato, quindi lo devo asciugare. E lascialo pure, Andrà, già non muore il cane, poi dopo quando lo riportare dentro definitivamente lo chiudi, lo lavi, cioè lo lavi, lo asciughi. Domani mi casi pure, non so se ci siamo per andare giù. Si è alzato adesso, era sotto le coperte ancora. Cacca, quindi è un cane signore questo. Penso proprio di sì. Non c'è un orco, entra esci, ne guarda in modo di casino. No, lui non ci sta fuori, è uscito, ha fatto i bisogni, ha asciugato col fondo, adesso è qua vicino a Milano, qui, è qua vicino a me, è qua vicino a me, adesso già non esce più. Non ti salta addosso tutto il zuppato di gozo a fare le coccole? No, prima si fa asciugare e poi ti ringrazia, capito? Ma è di quelli che arrivano tutti infangati, che debili, ti lasciano impronte in alta alla maglietta, giù boh. Certo, per me è un cane serio, è educato, no, non è fa di queste cose. Un cane nubile, di quelli del coso, dei nubili della coso, dei marchesi del grillo. No, è un cane inglese, capito? È un lord, infatti si chiama Filippo. Lui è inglese, è un bulldog inglese ed è un lord, si chiama come il principe, come il re, capito? Filippo primo di Ussilo, Ussilo. A Ussilo vi sei tu, Filippo primo di Serrasecca. Serrasecca è meglio, giusto? Ok, vai Mirko. Ma Mirko, il problema è che lui non sta fuori, capito? Sta solo l'estate fuori, anche tutto il giorno. Quando c'è tempo brutto lui sta sempre dentro e poi dorme tantissimo. Figurati che è uscito ieri sera alle 8, lui l'ho riaperto la porta verso le 9:30 e si è alzato poco fa, proprio alzato, perché dorme, russa, come che non ci sia, tutto coperto, c'ha la sua brandina, c'ha il materassino, c'ha il plaid, come un cristiano. No. Questo è come che non ci sia, ti ripeto, non è di quei cani rompipalle. Va bene, dai, facciamo girare avanti Franco di Sorso, buongiorno e buon Santo Stefano anche a te. Capo, tutto ricambiato. Ciao. Niente, dai, io vi devo lasciare che mi stanno chiamando. Ci ascoltiamo le prossimine. Ciao Mirko, ciao Claudio e Roberto, ci sentiamo alle prossimine. Riprendi Robè e fai girare. Ciao Franco, ben sentito, buon tutto. C'era anche Antonio, dai, così saluti anche Antonio. Capo, ciao Antonio. Non so se Antonio si è allontanato a girare il sugo. No, già fatto il sugo. Ciao Franco, ci risentiamo alle prossime. quanti ci siamo rimasti, io, Antonio, Claudio che sta girando lo zemino e Mirko. Vai Mirko di nuovo, i saluti a Franco. Scappa. Vabbè, ciao Fra di nuovo, tante cosce belle, alle prossimine, ci ascoltiamo, va bene che va bene. Cosa vuoi ti dico? Mi sembra toccato qualcosa qua. Oh. Sempre la radio, la mia, sì? Sempre tu, purtroppo sei sempre tu. Va bene, no, perché ieri ho fatto un po' di movimenti qua, mi sembrava di aver toccato il Mickey del 430, invece no. Questo è il 430 numero 2, mi rompe. Questo è quello che abbiamo ritirato da poco, già lo sai da chi. Oh, perfetto, alla grande. Con che cosa? Con 60 o quello modificato? No, sempre col 50-60. 50 preparato questo? Sì, MC50 fatto a 60, non so che Fabrizio gli ha messo il circuito di amplificazione. Ed è un 60 praticamente. Non cambia assolutamente niente. No, perfetto, infatti non mi accorgo della differenza di nulla. Ok, avanti a Mirko. Dimmi un po', con la strumentazione che avevi preso, poi l'oscilloscopio funzionava tutto, Mirko, l'avevi provato? Che è Alghero è micidiale, quando provo ad Alghero fa grossi danni. Cacchio, mamma mia. C'è la roba dentro, danni grossi. Tempo l'altro non ci sia un'apparecchiatura elettronica o cosa del genere, cacchio, sennò ci butti tutto senza acqua dentro. Addirittura, cavolo. E già sta finendo l'anno, sperando che l'anno prossimo cambi qualcosa e migliori soprattutto qualcosa, perché ne abbiamo sopportato di troppo. Cose brutte e tristi. Vai Anto. Così, Giulia. Quando piove è un casino, Un po' vicino, poi va nulla. Allora non bastava, andavamo quasi un mese d'eva. C'è ancora per piovere. No, lo so, brutto quando sta sempre piovendo giù. L'altra volta mi ha fatto quella pausa di una settimana di bel tempo, dai, ci stava bene. È stata 3 settimane, 20 giorni piovendo ininterrottamente, mattina e sera, mattina e sera. Poi ti trovi d'estate che non veva, perché la devono scaricare a mare che i bacini non riescono a contenerla. Quella è la colpa la loro però. La colpa di Claudio, dillo a lui, era lui la cosa, quella dell'acqua. Io già partire sopra il collo, ci ha raccontato tutte le storie, potabilizzatori, depuratori, filtri, cose varie. La colpa è quelli lì, non c'entra niente lui. Lui era a livello di battuta, nel senso che se le cose vanno fatte bene, progettate bene come devono essere fatte, no, aggiustando oggi, sfacciando domani, rimettendo un pezzo di un rotto domani, che l'indomani ancora si rompe, eccetera. I progetti, infatti, gli impianti nuovi già li stanno facendo così, ma è roba di 50 anni fa, tutta la conduttura, le cose, a parte quelle nuove, è tutta roba della guerra. Già lo so, già. Vai Mirko, a te il mic. Eppure Alghero soldi già ne girano col turismo eccetera eccetera, non sono mai riusciti a risolvere i problemi dell'acqua e della puzza a quel pezzo del lido delle alghe, mamma mia, quando passi di lì è uno schifo. Ma lo so, ma c'è una ditta che dice aveva la possibilità di recuperare, di riciclare, non so cosa faceva, e l'hanno bloccato che secondo loro non so che cosa, ma stiamo parlando, che è una vergogna quando passi di lì in quel pezzo d'estate, l'odore della cosa in putrefazione si sente dalla strada. C'è gente, io c'ho un amico abitante di fronte, mi ha detto una cosa spaventosa. Sì, già lo so. Ok, vediamo se Claudio è rientrato. Ci sei Claudio? Io sto facendo ora che tra poco mi chiamano. Ok, vai a tu. Capo. No, queste cose puzzolenti non sono granché. Cioè, mamma mia. Cioè, quando non riescono a risolverlo. Oh Mirko, e ieri da voi confusione ce n'era, se ne erano scoppi, fuochi eccetera eccetera. Perché poi hanno bloccato, doveva esserci capo, come si chiama quella festa di Alghero? O forse no, a Capodanno la fanno, la festa quella bella grossa. E ho sentito, c'era Giusy Ferreri, poi non so più dove andare, a due persone importanti, personaggi importanti, era una tradizione, pure quest'anno di nuovo, ma io dico, ma che cacchio stiamo combinando e basta con questo fatto del Covid, stanno distruggendo tutte le attività, quelle ci sono le attività da Alghero che lavorano in quel periodo proprio pieno e me li blocca. Siamo perdere, se no siamo 2 giorni parlando, dai, non voglio creare polemiche, basta, dai. Ok, vai Anto, a te il mic. Ma che la finisca di fare, allora maestro già pagliacciatemi. Cioè, Cioè, ci stanno rovinando anche il capodanno quest'anno. Ma che vergogna, ma dai. E meno male non ho fatto il lockdown, perché la paura mia è che questi scemi fanno di nuovo il lockdown, perché si svegliano la mattina, beh, da oggi sei zona rossa, così, a seconda della mentalità che c'è dello scemo che se ne sveglia la mattina. Si fanno le statistiche per conto loro e dicono lasciamo perdere. Non ne abbiamo in merito, dai, cambiamo argomento e basta. Come fuori il tempo, a parte la pioggia, freddo c'è, chi è uscito fuori? Un po' di freddino c'è. Sai che c'è il mio genero, infatti non è qua, sono andati a surfare oggi con mia figlia, ha detto ma cosa vi vedi, c'è un tempaccio, loro escono quando c'è il tempo brutto, i surfisti, a Portoferro, ha detto ma rimani qua, e fu di no siamo con gli amici e vai. Ah da cosa, ogni amare venga, siamo in cerca da casa ya. A fare chef è andato Gabriele con Alessandro. Come, cosa hai detto? A surfare è andato Gabriele con Alessandro. No, Gabriele è mio genero, loro non lo so, quasi che ci sono andati anche loro, perché quando escono loro si mettono d'accordo e vanno tutti insieme a Portoferro. L'altro giorno è andato a surfare Alessandro mio nipote, mentre Gabriele mio genero è andato adesso con mia figlia e degli amici suoi, ma si manda dei messaggi, c'è possibilità che sia andato pure lui, non tanto il freddo, infatti dicono le ragazze cosa ci fanno, devono rimanersene in macchina, lampade di rete, fatta ma lascia perdere, ce ne sono dei momenti per andare, non me ne vado il 26. Vabbè, giovani sono, ero già, stanno tutta la settimana a lavoro, è chiaro che questi giorni di festa poi non sentono freddo loro, no? Lui lascia perdere, questo l'ha detto Gabriele, non ce n'è freddo, ma non stai facendo quel tipo di cose, non ce n'è, vabbè c'hai la multa, ti muovi, fai, non ce n'è di freddo. E ci vanno i freddoletti, allora cosa dobbiamo di noi? Oh, già l'ho fatto anche io, non so, io facevo pesca subacqua, sono andato anche con la neve, ma la neve è vera, non scherzando, andare che stava nevicando, una volta che si con la muta e coso, mi si cancarava, io avevo le mani ghiacciate, ci andavo, avevo i calzari per le pinne e i guanti, eppure il freddo entrava. Oh, la temperatura non è tanto, diciamo la temperatura dell'acqua sarà su 18-19 gradi, non pensiamo che sia, se fuori ci sono 6 gradi la temperatura dell'acqua, magari è più calda verso, più fredda verso febbraio, marzo, ancora più perché c'è ancora un po' di residuo della temperatura estiva, però quando esci va freddo, se non ti tappi bene, quando ti togli la muta ti fulmineggi. Lo so, però ti ripeto, loro lo mantengono, vabbè, lo mantengono, sono giovani, largo ai giovani, gappa gappa. Vai Mirko, cazzo un'altra passata lei, vai anche me, ciu, qua c'è vento e pioggia, tutto andare, perlomeno dove sono io c'è vento forte e pioggia, perché non è vento, a voi c'è l'imbiccio, qua sta girando un po', sembra mezzo grecale, mezzo levante, un po' maestrale, sta girando un po' da tutte le parti, ma non è adatto temporale, è adatto rovesci e sono le cose più brutte, capito? E quando si parla di rovesci cosa vuol dire? Passa da dei colpi e poi si blocca, passa da dei colpi e poi si blocca. Se invece era pioggia, vera pioggia, piove tutto il giorno oppure piove un po' e poi non piove più. Invece i rovesci sono una rottura di balle, capito? Comunque anche domani è così, la stessa giornata, poi da mercoledì dovrebbe iniziare a aprirsi un pochino, insomma. Sì, allora adesso c'è il biccio, però sta girando vento da sud e poi martedì gira, domani è come oggi, piove, e martedì invece c'è miglioramento, rientra appena appena il maestrale. Momento tenete al maestrale, dai. Entra il maestrale, martedì, mercoledì spazza tutto e la pioggia va via, ma un paio di giorni, dai, però tempo suo, insomma, così. Vabbè. Va bene, già stiamo bene in casa al calduccio, vai Anto. Pure qua sta bene, c'è caldo, una ciuffa accesa, sono completamente a petto nudo, perché qua dentro ci sta benissimo. Oh, ciuffa accesa da adesso, io c'ho 21 gradi dentro. Se accendo la stufa ci muore, sono 13 gradi fuori, 14 gradi, non ce n'è freddo, capito? Accendo stasera io verso le 3, le 4, allora lì, accendo la caldaia e la spengo verso le 10 e mezza, 11, ma non si può stare, arriviamo anche a 25-26 gradi, lascia perdere, ci sta da Dio, veramente molto molto bene. E dove sei a pranzo, Robè? No, oggi c'è i tuoi, i ragazzi. Adesso mia figlia l'ha organizzato, l'altra si è andata fuori e ha fatto la toccata, vengono tuoi zii e cose, e ti nanno, vabbè, poi ci vai da. Fucchi va buoni siamo. A casa. No, l'aria sta lavorando. È andata alle 8. Penso che uscirà verso le 5, le 6, non lo so. Cosaccio quando se c'è.